Ciao mitica Deborah, sono Simone, un musicista toscano. Volevo dirti e dirvi che tu e Mauro sembrate proprio Papageno e Papagena. Cantate sempre il duetto di Mozart a flauto magico, è una cosa molto bella. Ciao, baci a tutte e due. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang. Ecco, per fortuna questo bang bang è stato scongiurato. Sì, cara Deborah, mi chiedo perché, e lo chiederò poi a Marco Lombardo, ma perché non la versione italiana di, mi pare, Caterina Caselli? Ma adesso sicuramente qualche ascoltatore della mia età, diversamente giovane come me, potrà aiutarmi, ascoltatore o ascoltatrice. Mi pare fosse Caterina Caselli. Vabbè, adesso vediamo perché ha scelto questa versione international di questa canzone di Bang Bang. Allora, il punto è che noi in realtà volevamo utilizzare questa colonna sonora per raccontare la notizia frufru del giorno. Ah, ecco. Chiamiamola frufru, rischiava di non essere tanto frufru. Per fortuna è finita così. Anch'io ho bisogno di soldi, caro mio, ma non mi metto mica a fare queste cose. Esatto, così è stato è stata un po' la frase che ha disarmato in un certo senso il rapinatore, in senso morale forse più che materiale. La vicenda è occorsa a Milano nella ecco, grazie alla regia. Questa la canta Ornella Vanoni, però. Però è la Vanoni, vabbè, non importa. Però la versione non è sua. Vabbè. È una delle interpretazioni, delle varie una delle varie versioni che ci sono. 349-238-6666, aiutateci a uscire da questo tunnel musicale in cui ci siamo ficcati comunque da soli. Comunque, pur sempre due di denari, oggi è giovedì e facciamo Investire Informati. Allora, cosa è successo a Milano? Che praticamente questo rapinatore è entrato in questo supermercato e voleva naturalmente prendere tutto quello che c'era nella cassa, ma la commessa, che peraltro è un contratto a termine, quindi sta lì in questo periodo, raccontano i giornali, la signora Raffaella, commessa appunto milanese, è riuscita a sventare questa rapina al supermercato perché si è messa a chiacchierare con il presunto rapinatore, che alla fine non ha rapinato un bel niente. Gli ho detto di andarsene, che non potevo aprire la cassa, che con le sue pretese avrebbe messo nei guai anche me. E io ho bisogno di questo lavoro perché sono separata, ho due figli. Gli ho detto di non fare cavolate, gli ho ripetuto che senso ha andare in giro a minacciare la gente. Ho bisogno di soldi, ha risposto lui, e lei anch'io, ma non faccio queste cose. Insomma, una bella lezione che stamattina ci piaceva raccontarvi. E dopodiché è arrivata un'altra cliente, il rapinatore, cioè il tentativo di rapina è finito lì perché l'uomo se n'è andato e poi naturalmente è intervenuta la polizia. Insomma, tutto quanto è stato riferito dai giornali di questa mattina. E quindi un rapinatore disarmato, per così dire, a parole. Vedi che a parole, alle volte, si diceva una volta, la lingua ne uccide più della spada. Beh, qui se non altro la parole, si è riusciti a evitare un brutto episodio. Allora, invece oggi è giovedì, caro mio, dopo il giornale radio del risparmio andremo a curiosare fra i mercati finanziari. E, un anno che è partito veramente con una marea di notizie con le quali forse ci dovremo confrontare per tutto l'anno, se dobbiamo prendere delle decisioni di investimento che dobbiamo valutare anche sulla base di come vanno i mercati finanziari. Ieri finalmente abbiamo portato a casa l'accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina, prima parte, fase 1. Ovviamente adesso bisognerà vedere come verrà sviluppata la seconda fase, ma è l'anno elettorale, quindi Trump sicuramente si metterà in pausa. Ha già detto che la seconda parte dell'accordo verrà firmata dopo l'eventuale sua elezione e quindi mette tutti un po' in stand by. In ogni caso il mercato appare contento, anche se ci sembra un accordo che mette più in una condizione di vantaggio gli Stati Uniti, ma lo chiederemo al nostro ospite di valore mondiale. Esattamente, perché è tornato a trovarci, ci grande, fa molto piacere. Un ospite grande come le due superpotenze che si sono accordate. Sì, Alessandro Tentori che torna qui a trovarci, siamo felici di rivederlo, di riaverlo qui negli studi di Due di Denari. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E Alessandro Tentori, peraltro, è anche un uomo, diciamo così, imponente, perché è molto alto. Quanto è alto lei, Tentori? Scusi. Quasi due metri. Quindi, insomma, vede le cose anche dall'alto e può giudicare meglio sicuramente di altri. Se continuiamo a trattarli così non verranno più a trovarci, Maura, però so che sono tutti molto ironici e spiritosi, quindi sì, no, accettano. Ma io anche avrei diverse domande, perché questo atteggiamento di Trump, che è un po' smargiasso, per usare un termine che è caro a Leonardo Manera, che è più vicino a te, esatto, esatto. Che però non ti dà più dello smargiasso da un po' di tempo, per la verità. No, è passato a cose più pesanti e che gli costeranno naturalmente molto di più in querela. Però, dicevo, questo atteggiamento smargiasso di Trump effettivamente sembra mettere poi in difficoltà ad esempio l'Unione Europea e anche l'Italia, leggevamo sui giornali di oggi. Quindi sono curioso poi di sentire, dopo il giornale del risparmio, come la vede Alessandro Tentori. E allora, siccome io voglio subito soddisfare questa tua curiosità, vediamo di fare subito i compiti. Leggiamo subito il giornale radio del risparmio, così cominciamo anche abbastanza rapidamente a investire informati. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Una bag of money, bisogna sicuramente proteggerla, non portarsela tanto in giro per città se si è in vacanza. Allora, tutto questo per introdurre una bella notizia che oggi appare in prima pagina sul Sole 24 Ore, la fotonotizia, sì. Mi pare che si chiami così, sì, brava. Nel gergo giornalistico, quello old economy. Sì. Allora, dove si racconta? Quando vendevamo i giornali, più o meno. Esatto. Dove si racconta la storia di questa startup romana che si chiama BagBnB, che ha sviluppato una piattaforma per consentire l'individuazione di punti per il deposito di bagagli. È una startup che ha avuto un grandissimo successo, adesso ci sarebbero dei fondi di investimento che vogliono investire per l'appunto in questa realtà, ed è passata in 2 anni da 300.000 euro di ricavi a 5 milioni. Quest'anno l'obiettivo è raggiungere i 10. Che cosa fanno in sostanza questi ragazzi? Che cosa si sono inventati questi ragazzi che hanno inventato questa startup? Erano consapevoli del fatto che se tu vai in albergo, stai in vacanza e stai in albergo, l'albergo ti tiene le valigie per una mezza giornata se vuoi goderti le ultime ore prima della ripartenza appunto di viaggio nella città prescelta. Ma se scegli un appartamento su Airbnb? Devi andartene con tutti i tuoi bagagli, appunto armi e bagagli, verrebbe da dire. E allora loro si sono inventati questa app che ti consente di individuare i posti dove puoi lasciare per qualche ora in deposito le tue valigie. Non so, potrebbe essere un bar, potrebbe essere un altro affiliato di Airbnb, da qualche parte, insomma, lì nelle vicinanze puoi lasciare i bagagli e fare il tuo ultimo giro nella città che hai scelto di visitare. E quest'anno i signori si sono dati l'obiettivo di 10 esatto. milioni di ricavi, quindi è comprensibile che i fondi li stiano guardando con una certa attenzione e interesse. In Italia Bang Bang, Equipe 84, Corvi, Dalida, Carlo da Bergamo ci dà tutta la gamma dei cantanti che si sono cimentati nella propria interpretazione di questa canzone. Tornando a noi, la bolletta 28 giorni. Oh, ma questo è un classico proprio, un tuo cavallo di battaglia, un po' nostro. Come Bang Bang per tutti quei signori lì, sì, che abbiamo nominato. È un grande cavallo di battaglia anche per alcune associazioni dei consumatori, in particolar modo sta procedendo con successo l'iniziativa di Adiconsum, che aiuta i consumatori che sono stati, tra virgolette, vittime delle bollette telefoniche fatturate ogni 28 giorni a rientrare in possesso dei soldi pagati in più. Loro hanno lanciato appunto questa loro iniziativa con la quale invitavano tutti gli associati naturalmente a darsi da fare e a chiedere attivamente alle compagnie di telecomunicazioni la restituzione di quanto pagato in più. In 2 mesi e mezzo dal lancio dell'iniziativa, dallo scorso 28 ottobre, hanno ricevuto ed inviato agli operatori telefonici TIM, Vodafone, Win3, Fastweb 9.000 reclami. Al momento, su un totale di 7.000 richieste già gestite, il 70% ha ricevuto il rimborso, il restante 30% non l'ha ottenuto per mancanza dei requisiti, ad esempio perché la richiesta è stata avanzata per il numero di cellulare invece che per il numero di telefonia fissa. Per cui, insomma, rivolgetevi se volete anche a questa associazione dei consumatori se non volete fare da voi per ottenere il rimborso. Ma senti, visto che stiamo parlando di rimborsi, vuoi anche annunciare che cosa forse potrebbe capitare per gli azionisti della Popolare di Bari? Spunterebbe un ristoro del 30% per appunto gli azionisti di questa banca, se non mi ricordo male. Adesso riguardo velocemente il pezzo da cui abbiamo tratto questa notizia, non riporta la cifra esatta, dovrebbe essere 70.000 gli azionisti che vorrebbero in qualche maniera rientrare in possesso del loro investimento, ma in quanto azionisti in linea teorica non avrebbero diritto a ciò. Ma c'è un articolo appunto sul Corriere della Sera del collega Fabrizio Massaro che spiega che si prevedono due strade: transazioni caso per caso e incentivi. Sui dettagli sono al lavoro i commissari straordinari della banca, Antonio Blandini ed Enrico Aiello. Gli obbligazionisti, invece, ha già fatto sapere il ministro dell'economia Gualtieri, saranno liquidati alla scadenza dei bond. Complessivamente nel 2021 vanno a scadenza 230 milioni di obbligazioni subordinate, dato che la banca è ancora in bonis, e quindi seguiremo soprattutto appunto la sorte degli azionisti per i quali si potrebbe aprire questa strada. Invece ti voglio dare una cattiva notizia che viene dalla Cassazione per gli ex coniugi. Ogni tanto noi ci occupiamo delle vicende, soprattutto normative. Dei diciamo diritti. Che buone raramente ne arrivano, eh? No, che già uno si separa, poi in più gli toccano anche, diciamo, queste. Lo sappiamo. Dunque, non potete neanche farvi assegnare la pertinenza dell'abitazione, cioè. Quando l'ex lascia la casa all'altro coniuge, in questo caso era la moglie, il marito, che l'ex marito che lo lasciava all'ex moglie, non può tenere per sé, ad esempio, il sottoscala, il seminterrato, la cantina dove stare. Nel caso momentaneamente volesse stabilirsi lì. È intervenuta la Cassazione, e lo riferisce Patrizia Maciocchi sul Sole 24 Ore, e ha detto: mi spiace, ma guardi, lei, se la casa è stata assegnata alla sua ex consorte, non può stare neanche nei locali del seminterrato, perché questi locali sono pertinenze, e quindi la pertinenza non può essere separata, deve essere in uno con l'assegnazione che è stata fatta della casa già coniugale. Lascio a te il bonus sociale idrico, perché sul tema dei bonus riconosciuti alle persone non abbienti dall'autorità dell'energia e del gas, so che ti spendi sempre molto per ricordare appunto che ci sono queste possibilità, ma molte poche persone ne fanno domanda. Io invece volevo segnalarti che ieri presso il Palazzo Storico della Prima Zecca d'Italia, dell'Italia Unita, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova collezione 2020, che sarà emessa nel corso dell'anno, ma che è già prenotabile per il pubblico sul sito del Poligrafico e Zecca dello Stato. E praticamente si tratta di monete. Sì. Che propongono una collezione che celebra 10 temi ad espressione dell'eccellenza italiana in vari ambiti. Per esempio, ti faccio alcuni esempi di alcuni soggetti della collezione numismatica che è stata presentata ieri. Alcune monete celebreranno l'80° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Altre ricorderanno il 150° anniversario della nascita di un'illustre marchigiana, caro mio, Maria Montessori. Sì. E poi alcune ricorderanno la serie Grandi Artisti Italiani, Edoardo De Filippo. Un'altra moneta ricorderà la lettera 22 della Olivetti. Un'altra moneta ricorderà il 30° anno della Fondazione Teleton. E quindi, insomma, tante cose interessanti. Se volete l'elenco completo o addirittura volete prenotarle, c'è anche una moneta fosforescente, peraltro. Ah, per bacco. Quella dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via di estinzione. Fra un po' ci saranno pure i giornalisti della carta stampata. Leggo che c'è anche una moneta dedicata alla pizza e mozzarella. Quindi c'è un po' di tutto delle eccellenze italiane. E il sito dove potete prenotarvi è shop, S-H-O-P, scritto appunto shop in inglese, negozio in inglese, .ipzs.it. Da questo indirizzo potete già prenotare le monete, le emissioni di quest'anno. Da collezione, non da investimento, raccomandiamo anche su, perché se qualcuno pensa di fare un investimento di questo tipo deve prendere qualche volta un pochino anche le misure da questo settore. Adesso qua che mi scriveranno tutti i numismatici all'ascolto con tutti gli improperi del caso. Guarda che ti chiedono poi di ripetere qual è il riferimento di Consum per le bollette e quindi lo farai dopo che io ti avrò invece aggiornato su quanto riguarda il bonus sociale. Bravo. Idrico, cioè l'acqua. Allora, il sito è sempre www.arera.it. Come sapete, per chi è in situazioni di difficoltà economica, sotto certe soglie di ISEE, per capirci, c'è il diritto ad avere degli sconti in bolletta: bolletta della luce, bolletta del gas, bolletta anche dell'acqua. Il valore appunto dello sconto per quanto riguarda l'acqua è aumentato, lo sconto viene maggiorato ed esteso ai titolari di reddito e pensione di cittadinanza. Questo è in attuazione del decreto fiscale, cara Debora, che sì, era certo parte della manovra, il noto decreto legge 124 del 2019, e grazie appunto alla segnalazione di Arera è intervenuta una maggiorazione e l'autorizzazione autorità ne dà corso. www.arera.it. E prima di andare a curiosare sull'andamento dei mercati finanziari, apriamo lo sportello di Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Volevo segnalare quello che sta succedendo nella nostra amministrazione, nel nostro comune. Si tratta del comune di Brembate di Sopra, in cui c'è stato fatto un accertamento sulla Tari. A me risulta che devo dare dei soldi perché non si trovano bene i parametri, e questa è una questione. Nella multa viene anche inclusa l'agevolazione ISEE che io avevo diritto nel 2014. Questa agevolazione viene inclusa nella multa come un cumulo nella multa, compreso di interessi. Io credo e penso che questa sia una grossa ingiustizia, in quanto un'agevolazione non può essere accumulata in una multa. In fin di conti io avevo i requisiti per ottenerla. Non vorrei che si prendesse l'idea di usare questo modo per fare spiccio, per fare soldi, per fare cassa, privando il cittadino di rivalersi, perché gli costerebbe molto di più che la somma stessa. Per tutti gli accertamenti, cosa deve fare questo signore? Andare alla commissione tributaria provinciale? Beh, innanzitutto nella multa che lui segnala dovrebbe essere indicato esattamente qual è l'ente competente, ma anche il funzionario. Quindi se questo non avviene, lui può recarsi in comune e lamentare da questo aspetto. Poi bisogna capire chi ha in gestione esattamente questa cosa, cioè se è stato passato a, che so, agenzia di entrate e riscossione, piuttosto che invece il comune si serve in proprio di una sua attività di riscossione. Però guarda, a questo punto mi è venuta la curiosità, magari facciamo un giro a Brembate, se vuoi venire, vuoi fare una gita a Brembate? Guarda, questo fine io ti settimana. Stavo ascoltando con così tanta attenzione che quasi quasi ti farei caporedattore di Norme e Tributi. Lasciamo stare, abbiamo già dato e non è il caso. Invece andiamo, però promettiamo di andare a verificare questo aspetto, questo curioso legame, anche perché, come sai Deborah, da quest'anno sono cambiate anche le modalità da parte dei comuni di eseguire gli accertamenti e di fare le contestazioni. Ne abbiamo già parlato Due di Denari e vedrai che dovremo tornare a parlarne nel corso dell'anno. Caro Marco, calendarizza, intanto andiamo ad occuparci di mercati. Investire informati. 800 24 00 24, se avete delle curiosità sull'andamento dei mercati finanziari, perché li osservate con attenzione, in quanto anche da come vanno dipendono le vostre scelte di investimento. La prima cosa da fare è individuare i nostri obiettivi finanziari, gli obiettivi, le necessità della nostra famiglia, poi di conseguenza organizzare le nostre risorse suddividendole naturalmente, non mettendo mai tutte le uova in uno stesso paniere. Quindi adottate una accurata diversificazione, però insomma quello che capita attorno a noi, Alessandro Tentori, va analizzato, commentato. Ci sono vicende anche affascinanti in un certo qual modo, perché abbiamo seguito con grande attenzione l'evoluzione delle trattative fra Stati Uniti e Cina. Ieri, con questa cerimonia a Washington, molto ricca peraltro anche di partecipanti, perché c'erano più di 200 personalità, e quindi come al solito Trump non ha mancato di fare il suo show, abbiamo concluso questa fase 1 del negoziato. Da che parte pende la bilancia? Secondo lei che fase nuova si apre a questo punto? Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di acquistare beni americani per 200 miliardi nei prossimi 2 anni, ma questa sarà una piccola parte appunto di tutto l'accordo, che consta, ho letto sulle Sole 24 Ore, di 84 pagine. Non è ancora pronta la versione cinese, e quindi chissà, non che come solo, se il diavolo non si nasconda nei prossimi dettagli. Ma sai che poi i cinesi dalla parte loro non hanno diffuso una cosa ufficiale, una parte ufficiale dell'accordo. Quindi tengono sempre un po' sulle spine, insomma. Bene, bene, non sappiamo ancora come si sostanzia. No, abbiamo naturalmente tutto il riferimento da parte statunitense. Alessandro Tentori. È stata un'ottima operazione di marketing, se vogliamo, da parte della Casa Bianca. Ricordo che questo è l'anno di elezioni, quindi il presidente americano ha sicuramente degli obiettivi di capitalizzare quanto più possibile politici, ogni risultato, certo. C'è anche da dire che la guerra commerciale, come abbiamo già discusso in passato, sì, è solamente un paravento, è uno specchietto per l'allodole. Il vero conflitto in verità verte su temi molto più importanti, come per esempio il dominio valutario. Gli Stati Uniti ovviamente hanno un interesse spiccato perché il dollaro rimanga la valuta di riserva numero uno, e sappiamo che i cinesi vogliono entrare in questo business non solamente con la valuta tradizionale, ma anche mettendo una valuta digitale nuova. Sono molto avanzati in questi propositi. C'è anche poi tutto il tema del dominio tecnologico, nel senso che se noi guardiamo i primi quattro titoli per capitalizzazione di mercato a livello mondiale, sono titoli tecnologici americani. E ovviamente la Cina avrebbe anche un interesse a entrare in questo business, quindi non è solamente scambi commerciali, non è solamente acquisto di obbligazioni americane, ma ci sono temi molto più importanti. Avevi altre curiosità? No, io volevo capire qua però come si sostanzia per la nostra cara vecchia Europa e anche per la nostra cara Italia. Le ricadute da questa parte, insomma, del mondo. Dico una cosa che mi viene in mente per l'Italia, ma ieri c'è stata anche questa offerta monstra, imponente, per il nostro debito pubblico a lunghissima scadenza, cioè il BTP a 30 anni, dico esatto, bene? Esatto, infatti. Ecco, per questo BTP a 30 anni 47 miliardi di richiesta. Visto. Nonostante tutto, nonostante facciamo di tutto per mantenere una cattiva reputazione mondiale, ancora il nostro titolo di Stato è gettonato. Ma quindi, insomma, piacciamo al mercato forse più di quanto pensiamo noi italiani, e invece questo accordo, che comunque ha mosso i primi passi, ha segnato i primi passi ufficiali tra Stati Uniti e Cina, ci mette in difficoltà, perché si leggono anche dichiarazioni preoccupate dei nostri abituali esportatori, ad esempio per gli alimentari negli Stati Uniti. Il tema dei BTP è sicuramente un tema interessante, non è solamente l'Italia. Ricordo che anche il Tesoro spagnolo ha avuto un'emissione dove ha riscontrato il favore degli investitori, quindi una domanda veramente... c'è anche da dire che il lavoro svolto durante il periodo di turbolenza finanziaria, chiamiamola così, non neanche troppo lontano, da parte del Ministero dell'Economia e della Finanza, in particolare il Dipartimento del Tesoro, è stato un lavoro eccellente di management del debito pubblico, quindi questo ha sicuramente aiutato a calmare un po' i timori degli investitori, come anche la firma di questo accordo. Devo dire, perché però c'è stato un po' di affaticamento sul tema della guerra dei dazi, dei conflitti commerciali, cioè anche durante il corso del 2019 a un certo punto gli investitori erano un po' stanchi di dibattere sempre delle stesse cose, alla luce soprattutto dei rendimenti molto positivi, delle performance eccellenti del mercato azionario. Tra l'altro, mercato azionario che in questi giorni sta guardando anche alla ripresa delle stagioni delle trimestrali. Nei primi tre giorni di divulgazione dei dati dagli Stati Uniti è toccato ai colossi della finanza comunicare appunto come è andata nell'anno precedente. Sembra che le cose siano andate abbastanza bene, e allora, poi magari ne parleremo. E allora, cara Deborah, dici come stanno andando oggi, perché è il tuo momento, le borse. Ma per favore, ma vabbè, comunque, arrivederci. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Refocert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800-425-325 o creditreform.it. Tuta? C'è. Guanti? Anche. Para orecchie, due paia. Ok, andiamo pure al lavoro. Un vero professionista non smette mai di esserlo, nemmeno quando la temperatura scende a zero. Se scegli un veicolo Fiat Professional a gennaio, anche l'anticipo va a zero. Acquistalo ora e inizia a pagarlo ad aprile. Canone da 139 euro al mese, TAN 3,80, tasso leasing 3,88. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. È considerato uno dei migliori film dell'anno. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Candidato a 6 premi BAFTA. Non sei un nazista, sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Jojo Rabbit, dal 16 gennaio al cinema. Due di denari. E non ha lunedì nero, non conosce default. Senza banche centrali, senza WTO. Non ha lunedì nero, non conosce default. Eccoci ritrovati con Investire Informati, la nostra rubrica del giovedì. Generalmente che cosa si fa? Si aprono i giornali economico-finanziari, specialmente uno di colore salmone o rosa, te come salmone, lo salmone. E cerchiamo di così leggere insieme ai nostri ascoltatori le notizie di carattere economico-finanziario per interpretarle, commentarle, spiegarle e da queste magari fare anche delle scelte di investimento. Questa mattina ci aiuta Alessandro Tentori, capo degli investimenti per l'Italia di AXA Investment Managers. Allora, siamo rimasti alla tregua commerciale fra Stati Uniti e Cina, al BTP emesso ieri dal Tesoro italiano, il nuovo trentennale che ha raccolto 7 miliardi, le richieste erano ben superiori, il tasso lordo annuo riconosciuto per questa scadenza è del 2,5%. Quindi ci si indebita per 30 anni, Tentori, per avere una cedola di questo tipo ogni anno. Sul mercato ci sono molte scadenze che hanno, come dire, dei rendimenti pari a questo titolo italiano? Ci sono però con un profilo di rischio molto più spiccato, un profilo di rischio di credito ma anche un profilo di rischio di liquidità. Non dimentichiamo che la liquidità è una caratteristica molto importante per gli investimenti. I titoli di Stato italiani sono riconosciuti come extra liquidi, cioè si possono scambiare in forchette molto compresse in quantità pressoché illimitate, cosa che non è vero invece per tutti gli altri investimenti. Quindi il tema della liquidità. Anche se il rendimento magari non è dei più elevati che si possono trovare sul mercato, c'è una sorta di garanzia perché i titoli sono liquidi, cioè insomma se uno ha bisogno e vuole venderli rapidamente può farlo e tornerà in possesso del denaro. Questo in due parole proprio molto banali vuol dire quello che ci stava spiegando. Esattamente, non tutti gli investimenti possono essere liquidati immediatamente, cioè quando un investitore entra nell'investimento, acquista, allora lì non c'è nessun problema, perché chiaramente, però quando deve uscirne, molte volte può uscirne a condizioni diverse oppure addirittura in un periodo più lungo. Allora, perché si chiedesse per quale motivo bisogna prestare allo Stato un determinato quantitativo di denaro per 30 anni per ottenere il 2,5% lordo annuo, ricordiamo anche che in genere questi titoli, queste scadenze, Tentori, vanno nelle casse di previdenza, nei fondi pensioni, quindi sono soggetti istituzionali che ricercano soluzioni di investimento di questo tipo, non è proprio un qualcosa di adatto al pubblico retail. E soprattutto non sono solamente investitori istituzionali italiani, ma anche casse di previdenza, fondi pensione, assicuratori che provengono da altri paesi all'interno dell'Eurozona, ma addirittura anche in altre aree economiche. Io vorrei invece tornare su un tema che abbiamo già affrontato in qualche altro giovedì. Wall Street, ma in generale insomma il mercato azionario, i mercati azionari vengono da un 2019 che è stato di grande soddisfazione. Wall Street poi mi pare, Deborah, che continui a crescere già da diversi anni. Assolutamente, ma poi ti ricordi che 2 anni fa io lanciavo l'allarme, facevo anche un po' la Cassandra, prima o poi torna indietro, ma assolutamente sono stata totalmente trascurata nelle mie preoccupazioni. Io sono ben contenta per chi investe, perché ci continuano a dire che si punta su società che evidentemente hanno un business solido, soprattutto il quadro macroeconomico comunque complessivo è buono, ma cioè questo grafico di Wall Street a me continua a generare un po' di preoccupazione. E allora la prima domanda è se queste preoccupazioni possono ritenersi fondate, queste preoccupazioni che poi non sono solo quelle di Deborah, ma immagino anche di molti ascoltatori. E la seconda è strana questa disarmonia che c'è tra un andamento positivo dei mercati finanziari e invece un'economia tutto sommato lenta, ad esempio in Europa. Io non è che sono preoccupata della discesa di per sé, ma più che altro che possa avvenire con il famoso ascensore che ci ha raccontato un altro consulente finanziario un paio di settimane fa, perché ci ha ricordato questo famoso detto che circola tra voi operatori della finanza, Tentori, che dice: il mercato sale facendo le scale, ma quando deve scendere prende l'ascensore. Quindi tutto lì, Sì, non ho mai visto un mercato scendere lentamente, questo lo posso confermare. Tornando al discorso di prima, mi pare che ci siano dei fattori tecnici oltre che fondamentali economici dietro la recente performance di Wall Street. Uno fra tutti il fatto che gli investitori in media hanno ancora delle riserve di cash inutilizzate e che quindi a ogni piccolo, non chiamiamolo storm, ma a ogni piccola debolezza del mercato azionario sono pronti di permettere un chip per rientrare, per tentare di rientrare sugli investimenti. In particolare faccio anche notare che abbiamo cominciato l'anno scorso, quindi a gennaio 2019, esattamente 12 mesi fa, con un sentiment, un presentimento veramente negativo rispetto agli investimenti a rischio, perché si veniva dal dicembre 2018, certo, dove c'è stata proprio una correzione molto importante. Questa è una cosa molto importante per spiegare forse l'andamento rispetto anche ai fondamentali, che alla fine sono quelli che erano 6 mesi fa. Sempre Trump c'era di mezzo, Tentori. Ma lei che cosa ne pensa di questo cigno nero che si è palesato all'inizio dell'anno, di questa crisi politica tra Stati Uniti ed Iran, circoscritta abbastanza rapidamente, addirittura nella dinamica è sembrata quasi pre-concordata per come poi si è risolta subito, però una piccola fiammata del petrolio c'è stata e questo ci ha ricordato come sul mercato, a prescindere da eventuali tensioni geopolitiche che possono essere anche di altra natura, c'è un grande possibile problema che in prospettiva potrebbe determinare veramente una scossa ai mercati, cioè il ritorno dell'inflazione, soprattutto se cattiva, se generata da fiammate delle materie prime come quella che abbiamo visto, questa sì che potrebbe essere un problema. Sì, diciamo che per il momento non è stato tanto un problema, nella misura in cui i comparti energy degli indici azionari che obbligazionari erano stati quei comparti che hanno un po' sottoperformato durante tutto l'anno 2019. Quindi un aumento del petrolio paradossalmente ha fatto sì che questi settori performassero nei primi giorni dell'anno e quindi hanno un po' bilanciato negli indici la tendenza ribassista della news negativa da parte degli eventi del Medio Oriente. È ovvio che andando avanti dovesse esserci una situazione di inflazione al rialzo in un contesto dove l'economia globale viene comunque vista un po' dagli analisti in rallentamento, in particolare gli Stati Uniti, questo potrebbe essere un problema, una fonte di imbarazzo per quelle banche centrali che appunto si sono scavate nella buca del controllo dell'inflazione, in particolare la Banca Centrale Europea che ha questo target del 2%, dove però l'economia stenta a ripartire. Sì, nonostante tutti gli sforzi, diciamo, ma oramai si pensa che sia più un problema quasi politico, no? L'ex governatore Mario Draghi diceva sempre: noi abbiamo fatto il nostro, adesso tocca alla politica fare di suo per stimolare i consumi, per far ripartire l'inflazione. Pare che anche la sua successora, si dice successora Deborah, ma vabbè, no. Licenza poetica, pare che anche Lagarde sia più o meno orientata sullo stesso tono. Ma in questo ambito è molto bene che sia partito il processo di review. La revisione della strategia della BCE. La strategia è un processo che non sappiamo quanto durerà, però apparentemente dovrebbe cominciare la settimana prossima e potrebbe portare a una strategia completamente nuova, potrebbe includere strumenti nuovi, potrebbe includere dei target nuovi e soprattutto potrebbe contemplare l'utilizzo simultaneo non solamente della politica monetaria, ma forse anche della politica fiscale, della politica macroprudenziale, per avere un po' più di trazione su questo mercato che al momento sembra proprio non reagire. Allora, cara Debora, è il momento di porre il domandone. Ah già, vero. E certo, perché è giovedì, possiamo avere una sigla? Guarda come stanno sull'attenti quando fai delle richieste in regia. Sono sempre come sei autorevole. Molto reattivi. Allora, potevamo fare molte domande quest'oggi perché la trasmissione ha offerto diversi spunti. Potevo chiedervi qual è il sito utile per reclamare sulle bollette a 28 giorni, ma ve lo dico io. adiconsum.it, lì trovate il formulario per reclamare. Potevo chiedervi chi è la prima cantante che ha interpretato in Italia Bang Bang, la cover di Bang Bang, ma ve lo dico io perché sono generoso, è Milena Cantù. Esatto. Probabilmente scalzata poi senza ritegno da Dalida. E questo devo ringraziare molti ascoltatori che mi hanno aiutato nel frattempo. Fa la domanda vera. La però, domanda perché vera. Vogliamo dare per forza il nostro libro. Esatto, vi daremo Risparmiare è facile se sai come fare, libro di Debora Rosciani e Mauro Meazza con i basic del risparmio e degli investimenti. Se telefonando 800 24 00 24, telefonando a questo numero risponderete esattamente a questa domanda. Con quale durata è tornato sul mercato il tesoro italiano ieri, cioè qual è la durata del BTP che tanto successo ha riscosso ieri. Quanto siamo buoni però. Buonissimi, traffico. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020 The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Due di denari. Allora, le risposte solo all'800240024. Vogliamo sentirvi viva voce, non mandatecele su WhatsApp perché purtroppo vi vedo che siete molto preparati e attenti, ma non possiamo accettarle. Prego. Se volete mandarci su WhatsApp, invece, non so, esiste una versione di Bang Bang cantata da Mina? Ecco, sì, quello sa, potete mandarcelo russo. Su WhatsApp. No, allora, seriamente, per aggiudicarvi una copia di Risparmiare è facile se sai come fare. Chi non la potesse ottenere in questo modo può trovarla in libreria in questi giorni. Allora, Risparmiare facile sai come fare, ma dovete telefonare all'800240024 e dirci qual è la durata del BTP emesso ieri e che tanto successo ha avuto. Ne abbiamo parlato poc'anzi proprio qui a Due di Denari. A proposito di questo titolo di Stato, di cui non ricorderò la scadenza perché sennò do l'aiutino, però c'è una domanda per Alessandro Tentori, perché gli ascoltatori si chiedono, c'è una domanda precisa su questo: per quale motivo lo Stato emette debito a questa scadenza pagando quegli interessi di cui abbiamo detto, il 2,5% lordo annuo, quando potrebbe emettere debito ad un anno a tassi negativi? Ricordiamo che da qualche anno la strategia del Tesoro italiano è quella di allungare la durata media del debito. Perché è così importante questa strategia? Da un lato c'è una specie di garanzia sulla liquidità, quindi il Tesoro si impegna a mantenere una curva dei tassi BTP liquida su tutte le scadenze. C'è anche un'ulteriore considerazione, quella del cosiddetto rischio di rollover, cioè ogni volta che un titolo va a scadenza, questo titolo deve essere riemesso oppure deve essere rimborsato in ogni caso. E quindi se tutti i titoli di Stato fossero con scadenza annuale, tra un anno ci troveremmo, il Tesoro in questo caso si troverebbe a dover rifinanziare tutto il debito in un anno, il che sarebbe praticamente impossibile sul mercato. Io vorrei tornare su un argomento che è stato un po' oscurato, quasi mi verrebbe da dire, dalla cronaca rosa in un certo senso. No, secondo me hai ragione. Cioè la Brexit, abbiamo parlato negli ultimi giorni molto di più della fuoriuscita, insomma del divorzio in ambito della casa reale di Harry e Meghan, e non parliamo più però da qualche giorno della Brexit, che pure a fine gennaio dovrebbe avere il suo primo atto formale. L'ho preciso perché non è che poi dal primo di febbraio crolla il mondo, ma diciamo lì dovrebbe essere sancito ufficialmente. Il Regno Unito se ne va, non sarà più parte dell'Unione Europea. La cosa peraltro avrebbe, i mercati forse sono più attenti a questo rispetto a quanto succede in casa, nelle case reali, avrebbe già provocato un po' di preoccupazione a livello della banca centrale, della Bank of England, che forse si prepara anche a un taglio dei tassi di interesse. Com'è la situazione dal vostro punto di vista, Tentori? Sì, il mercato ha reagito e va a scontare la probabilità di un taglio, molto probabilmente con tutto questo dovuto al fatto che le aspettative di inflazione, l'inflazione stessa, stentano a ripartire. C'è anche il tema di continuare a dare supporto all'economia attraverso una sterlina che non si apprezzi, quindi mantenere una certa forchetta tra i tassi di interesse a breve nell'Eurozona e nel Regno Unito, e comunque non è scontata la risposta della Bank of England. Se noi andiamo a leggere un po' tutti i rapporti scritti e tutte le speech, tutti i discorsi fatti da Mark Carney, il governatore della Banca Centrale, non esiste una ricetta, nel senso che dovesse poi succedere sul mercato una situazione di panico, è anche possibile che la banca centrale, Bank of England in questo caso, debba alzare i tassi per controllare una svalutazione troppo veloce della sterlina. Andiamo a mettere un po' di pepe alla nostra conversazione sul finale, perché mi piacerebbe capire che cosa ne pensa Attentori sulle opportunità di investimento che potrebbero manifestarsi in questo 2020. Per i gestori attivi naturalmente è sempre il momento di investire facendo un'adeguata selezione. Voi quest'anno su che cosa avete deciso di puntare? L'anno in cui si discuterà molto della transizione energetica, quindi di tutta la questione ambientale, credo che il dibattito su questo e anche le scelte importanti di investimento delle grandi case saranno sempre di più orientate in questo ambito. Bisognerà vedere come puntare come in questa grande avventura, questa grande rivoluzione anche culturale. Segnalo che in questi giorni il CEO di BlackRock, che è il più grande fondo di investimento al mondo, Larry Fink, ha pubblicato la lettera annuale a tutto il suo entourage, sostanzialmente, scrivendo di come la sostenibilità e soprattutto i cambiamenti climatici stanno rimodellando completamente il volto della finanza e degli investimenti. Attentori. Sì, non è un tema, diciamo, nuovo, non è innovativo. È chiaro che tutti si stanno uniformando a questa tendenza. Probabilmente c'è anche un aspetto marketing. Se noi vediamo cosa sta succedendo in Australia, purtroppo adesso, questo sicuramente dà nuova linfa a tutto il tema degli investimenti green, degli investimenti sostenibili. In particolare anche è interessante questo tema nel contesto dell'ambito assicurativo. Ripeto, le assicurazioni con questo tipo di rischi, chiamiamoli meteorologici, roghi, fuochi, molto probabilmente dovranno cambiare un po' il business model di tutta la categoria risk insurance. Questo sicuramente è un tema molto importante, soprattutto per quel comparto. Cara Deborah, abbiamo già diversi ascoltatori che premono, ma forse facciamo ancora in tempo a fare una considerazione. Secondo me sì, vai. Con Alessandro Attentori. Allora, la considerazione vuole tornare un po' sul comportamento della Banca Centrale Europea e sull'euro. Se in Italia ci fosse, come dire, uno scossone che seguisse alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, noi dovremmo aspettarci un qualche scossone anche a livello di moneta unica, anche a livello di euro, e quindi poi di nuovo ulteriori tensioni e così via? Ma non credo. Credo che anche dovessimo avere un ulteriore sviluppo, chiamiamolo così, di governo, dovessero esserci poi nuove elezioni. Insomma, alcuni analisti già hanno ipotizzato questa situazione. Quello che osserviamo è che anche coloro che storicamente si sono, politici in questo caso, si sono professati come euroscettici, hanno capito che non ha nessun senso, una volta essendo al governo, non ha nessun senso adottare una politica, una strategia di conflitto con Bruxelles. E quindi è possibile sì dare una svolta, dare una chiara strategia di sinistra, di destra, dipende poi dall'ambito politico, però bisogna farlo nel contesto europeo, questo per garantire la stabilità dei conti pubblici. Allora, Adele dalla provincia di Brescia, il Tesoro ieri ha emesso un titolo di Stato, a che scadenza? 36, io non so, dirò una stupidata, 37 anni? Infatti l'ha invecchiato un po' Adele. Antonella da Roma? A 30 anni. Brava Antonella, che vuole il nostro libro Investire è facile se sai come fare. Risparmiare. Mi sono scordata il titolo, Mauro. Risparmiare è facile se sai come fare, in tutte le librerie, nelle migliori librerie. Cielo. Alessandro Attentori, grazie per essere stato con noi. Grazie, alla prossima. Piacere. Torniamo domani anche noi, dai. Certo. Buona giornata.